Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qua, cari ascoltatori. Oscar Giannino qui, attenti a noi due, ancora per qualche giorno da solo, ma vi posso intanto annunciare con l'affetto di voi tutti, ancora ringraziandovi in nome suo, ma lo farà lui, che da lunedì dovrebbe tornare qui la mattina con la rassegna stampa e poi attenti a lui, Alessandro Milan, e intanto lo abbracciamo ancora. E però alle 20:33 in diretta per i temi di Attenti N2, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia, vi dice subito più o meno dove andiamo a parare nella giornata, e vi chiedo se ritenete di intervenire all'800240024 su una questione che ieri è esplosa nell'agenda politica nazionale, mentre prima, pur essendoci, era come se non fosse mai esistita. Sto parlando del referendum, dei tre referendum proposti dalla CGIL, che ha raccolto la bellezza di 3 milioni di firme, cioè proprio non poche, anche se sui giornali l'ordine era non parlarne, per essere chiari. E però i tre quesiti referendari, di cui uno riguarda l'articolo 18 modificato dalla Jobs Act, l'altro riguarda i voucher, quindi l'occupazione precaria, il terzo le corresponsabilità tra appaltanti e subappaltanti sui contratti di lavoro nei cantieri in appalto, ma la questione esplosiva riguarda appunto l'articolo 18, cioè il nucleo intorno al quale Jobs Act poi ha incardinato i nuovi contratti a tutele crescenti. Improvvisamente, quando il governo Gentiloni nasce e va in Parlamento, ops, si scopre che l'Ufficio Centrale della Cassazione si è già pronunciato per la congruità sia del numero di firme raccolte sia dei quesiti rispetto alla legge, e si attende adesso, tra poche settimane, nella seconda settimana di gennaio, la pronunzia sulla costituzionalità, legittimità costituzionale dei quesiti da parte della Corte Costituzionale, ma in più si aspetta che sia favorevole. Ed ecco improvvisamente la scoperta di un tema che i giornali avevano silenziato, tra virgolette, in maniera rigorosa, perché, ripeto, l'ordine era non parlarne neanche. Adesso improvvisamente scopriamo che c'è un referendum alle porte. I referendum si tengono tra il 15 aprile e il 15 giugno. Ricordo che solo in caso di elezioni anticipate non si tengono più e si rinviano di un anno. Ed ecco che esplode la faccenda. Esplode la faccenda perché naturalmente il fronte del no che ha vinto nel PD solleva subito la questione nelle assemblee parlamentari, prima di dare i voti di fiducia. Ieri al Senato ha avuto 169 voti Gentiloni. L'onorevole Damiano dice: il Jobs Act è morto, cari colleghi, prendetene atto, è meglio che in Parlamento modifichiamo le norme che sono investite dal referendum. L'onorevole Damiano appartiene a parte del partito che ha sempre avversato abbastanza esplicitamente la riforme come quelle sul Jobs Act. La CGIL è incalza. Poletti ieri commette una scivolata istituzionale, perché diceva: ma tanto andremo a votare prima pur di non farlo votare questo referendum, che non è una bella cosa per un ministro in carica confermato di un governo che chiede la fiducia per durare non a tempo, per così dire, perché c'è una contraddizione tra l'ammettere di essere a tempo e il dirlo di non farlo per aggirare un'espressione della volontà popolare, cioè farla slittare di un anno. Si allineano gli esponenti della minoranza bersaniana, si allineano adesso però, perché non avevano mai detto così esplicitamente di essere contro il nuovo articolo 18 del Jobs Act, ed esplode la questione. Vi chiedo, secondo voi meglio votare su questo referendum e il governo vada di vita propria? Preferite anche voi che il governo convochi elezioni anticipate prima piuttosto di non farvi votare sulla questione dell'articolo 18? E soprattutto preferite la formulazione nuova su cui si sono incardinati almeno 4 milioni di contratti a tutele crescenti, queste sono più o meno le cifre delle attivazioni, sul totale delle attivazioni dei nuovi contratti, 4 milioni di totale crescenti derivano dalla nuova definizione dell'articolo 18, che non ha più la reintegra giudiziale obbligatoria come prima, e che la riserva solo ai licenziamenti comprovati come persecutori, no? Ecco, questa è la differenza tra il vecchio e il primo. La CGIL chiede nel suo quesito addirittura di tornare alla vecchia formulazione e chiede di tornarlo ad applicare nelle aziende sopra i 5, non più neanche i 15 dipendenti. Voi come la pensate su questo? Ecco, telefonateci all'800 24 0024, perché questa è la questione, ripeto, esplosa ieri, che diventa fondamentale, perché ci dice anche del dibattito interno del PD, che cambia di segno, perché a giudicare dai quotidiani, coloro che attaccano la formulazione di questo articolo, ripeto, il cardine del Jobs Act, sembrano diventare maggioranza nel PD, e questo, devo dirvi la verità, è una cosa molto singolare, perché l'impressione che si dà internazionalmente è di un paese che tocca temi così centrali facendone perno di un'azione di governo, ripeto, del PD, perché su questo Renzi è stato molto, molto esplicito, e l'impressione che si dà poi è che improvvisamente si procede a tentoni, cioè si cambia idea. Certo, c'è stata la sconfitta nel referendum costituzionale, ma cosa c'entra rispetto a tutto questo? È legittimo cambiare idea su temi così fondamentali ogni anno? Oltretutto vi segnalo, io ho scritto un editoriale su questo per il Messaggero, che significherebbe frazionare per l'ennesima volta il mercato del lavoro. Noi abbiamo quelli col contratto, col vecchio articolo 18 precedente alla riforma, se non è stato modificato il contratto. Milioni di contratti attivati nel frattempo con le tutele crescenti e con la diversa disciplina senza reintegra automatica come prima giudiziale, che sono quelli vigenti con l'attuale normativa. Torneremo ad avere nuove corti di milioni di contratti successivi se si riformasse di nuovo e si tornasse alla vecchia normativa dell'articolo 18. Capite che a fronte del mondo significa dire: dimmi in che anno sei nato o in che anno arrivi e ti dirò che contratto hai. A me sembrano cose che danno l'idea di che cosa? Di un problema identitario aperto enorme nel PD, ma nella politica italiana, su come si fanno o non si fanno le riforme. Ma questa è la mia opinione. Sapete che l'altra questione esplosa oramai, tanto da prendere le pagine che precedono, devo dire, i non entusiasti resoconti del passaggio parlamentare per la fiducia al governo Gentiloni dai toni piatti. Il secondo tema è quello della scalata lanciata da Bolloré con la sua Vivendi a Mediaset. La novità è che il presidente del Consiglio Gentiloni si è schierato, ha detto: questa maniera di assaltare Mediaset da parte della Vivendi e del finanziere Bretone Bolloré è impropria. Su cosa voglio dire questo improprio? Vasto equivoco. Io vi invito, cari ascoltatori, a leggere con attenzione gli articoli. La questione non è quella di difendere il campione nazionale, come molti intendono e come purtroppo la politica intende, perché all'interno dell'Unione Europea la questione non è il colorino nazionale della bandierina, se è francese o è bretone, rispetto alla famiglia Berlusconi che è italiana. Il punto qui è uno, e riguarda le norme di mercato. Le due società avevano firmato ad aprile un accordo vincolante in cui, fatta la due diligence dei conti di Premium, Vivendi si portava a casa Premium, e c'era anche uno scambio azionario tra le due società, Mediaset e Vivendi, con l'accordo anche di un range di prezzo preciso, con un rapporto poco superiore di 10 a 1 tra l'azione Mediaset che stava a 0,5 e quella Vivendi che stava a più di 5 euro. La domanda diventa: quell'accordo, che era un accordo perfetto, non era in via di negoziazione, era un accordo siglato in base al quale, nel frattempo che c'era lo scambio di azioni per sigillare l'alleanza industriale, Mediaset aveva ancora la piena titolarità dell'esercizio dei poteri delle azioni di Premium, tant'è che quest'estate ha anche rinnovato degli accordi come quelli con Disney senza che i francesi eccepissero alcunché, ma i francesi poi buttano per aria questo accordo perfetto, perfezionato in tutti i suoi particolari, a luglio, non ci si riconoscono più, e a quel punto partono le impugnative. Ma quell'accordo stabiliva una valutazione reciproca del range di prezzo. Oh. Cosa succede? Che buttandolo per l'aria, ecco che il titolo Mediaset scende da 0,5 più o meno fino a 0,2, perché incorpora il danno del contenzioso e dell'incertezza della mancata cessione di Premier a Vivendi, e il danno ovviamente conseguente al fatto anche della mancata alleanza industriale, perché il progetto industriale ha un senso, e come tra Vivendi e Mediaset, vista la presenza anche in Telecom di Vivendi. Allora la questione tecnica rispetto alle regole di mercato diventa: chi era legato da un contratto su prezzo reciproco come Vivendi rispetto al valore del titolo Mediaset, e quindi anche al valore incorporando Mediaset del titolo Fininvest, può comprare sul mercato secondario, iniziare a rastrellare titoli di Mediaset dopo averne determinato un abbattimento di valore così significativo perché da luglio butta per aria l'accordo, e può poi, dopo aver comunicato la volontà di voler arrivare fino oltre il 20%, come è arrivato ieri, invece indurre Mediaset per alzare la propria quota attraverso Fininvest in Mediaset a fare acquisti a un prezzo molto più elevato? Questo si chiama manipolazione del prezzo. Ecco, un meccanismo di questo tipo tra due società che sono vincolate da un accordo che poi uno dei due ha buttato per aria, su cui ci sono impegnative. In Gran Bretagna l'FSA interverrebbe dicendo: guarda, tu puoi comprare, caro Bretone, tutte le azioni Mediaset che vuoi, ma io ho l'obbligo di dirti che fino a che non è chiaro il contratto su il prezzo relativo sul quale voi avete messo le firme, le tue azioni che compri sul mercato secondario sono sterilizzate, perché il sospetto di una manipolazione del prezzo conseguente alla tua maniera di comportarti è molto forte. In Gran Bretagna avverrebbe questo, e non c'entrerebbe nulla la questione nazionale della Francia e dell'Italia da difendere. Vedremo in Italia. Per il momento la Consob tace, è tutto nelle mani della procura. Vedo poca attenzione a questo aspetto tecnico e molto al colore invece, purtroppo, e quello che conta sul mercato è la precisione delle regole per evitare le manipolazioni. Adesso direi che possiamo procedere con la pubblicità. Vi dico subito che dopo avremo due ospiti su una questione che è relativa all'esplosione ieri con questi arresti, di una cosa che mi ha fatto sobbalzare, arresti su un grande personaggio del mondo delle videolotteries italiane, di un ex parlamentare del PDL Amedeo La Boccetta, e di una vicenda che oltre a riguardare quasi 300 milioni di proventi non dichiarati al fisco nel settore del gioco, 300 milioni, ma com'è possibile che 300 milioni spariscano e se ne vadano nei paradisi fiscali quando a me con due microsocietà mi rompono sistematicamente le scatole con i controlli? Eppure questa vicenda, che poi arriva a lambire la famiglia Fini, i Tulliani eccetera eccetera, ci ripone la questione di quello che non è chiaro nell'enorme settore del gioco, che nel nostro paese pesa più di 88 miliardi, ricordiamocelo. E quindi avremo due ospiti su questo, perché nel frattempo ci sono anche sindaci che fanno marcia indietro rispetto alle ordinanze contro i tabaccai e i piccoli esercenti che hanno le slot machine, dicendo: io faccio l'ordinanza ma nel comune a fianco non la fanno, e quindi non si risolve nulla tranne che danneggiare i piccoli esercenti nel mio comune. Tra un minuto, ma intanto pubblicità. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui, tornati in diretta dopo la pubblicità, 8:36 primi e 20 secondi. Lasciate, prima di andare agli ospiti, che vi segnale ancora due o tre questioncine importanti, perché nel frattempo cambia l'orizzonte mondiale della finanza, perché la Fed li tocca i tassi di interesse, si va dalla fascia 0,025 alla fascia 0,50, 0,75 e altri aumenti dei tassi di interesse, apprendiamo ieri dalla Fed, arriveranno 2-3 nel corso del 2017, quindi questo cambia l'orizzonte della finanza mondiale ed è un fatto vero, punto numero uno. Chiunque poi volesse avere un'idea di come continuo ad arrabbiarmi perché il settore pubblico italiano, secondo me, troppe volte è da stato ladro, io ho questa formula da anni, alcuni ritengono che sia sbagliata, ecco, ve ne do un'altra oggi, conferma che sui giornali italiani ha pochissimo spazio, tranne che sul Messaggero, forse perché è il giornale della capitale poi del settore pubblico, ed è una vicenda di quelle che a me fa cadere le braccia. Cosa succede? Succede che ieri il capo della polizia Gabrielli deve annullare il concorso di cui c'erano stati gli esami scritti per 559 allievi della polizia, quindi stiamo parlando della Polizia di Stato e del concorso per selezionare quelli che agli occhi di tutti i cittadini devono essere il presidio della trasparenza, della legalità, del rispetto delle norme. E perché annullato? Perché il concorso era truffato dall'inizio nelle prove per gli amici degli amici, e sono rimossi anche i vertici del dipartimento che si occupa della selezione del personale nella Polizia a livello centrale. Allora, sul Messaggero è a pagina 17, negli altri giornali non c'è alcun rilievo a questa roba qua. Sbagliato, cari colleghi, sbagliatissimo, perché queste robe qui danno l'idea che il pesce puzza dalla testa e dall'alto, quello pubblico, della legalità del nostro paese. Sì, e ammettiamolo, e solo se ci scandalizziamo e diamo il giusto rilievo nella gerarchia delle fonti delle informazioni a notizie come questo, forse diamo una mano a chi pur c'è che vuole cambiare. Ma andiamo alla questione che ieri mi ha fatto sobbalzare. Mi ha fatto sobbalzare perché gli arresti che sono stati comunicati, avvenuti ieri in Italia, di Francesco Corallo, imprenditore nel settore dei giochi nel nostro paese, dell'ex parlamentare del PDL Amedeo La Boccetta, e poi degli indagati da parte di questa maxi indagine della Procura di Roma, che su un turbinoso giro di denaro per centinaia di milioni nei paradisi fiscali, originanti appunto da illeciti fiscali e da evasione di massa operata nel settore del gioco, che hanno finito per investire anche la famiglia Tulliani, cioè quella della moglie di Fini, che ha intervistato ieri, poiché a questi proventi sono collegate anche la vicenda del famoso immobile a Monte Carlo che determinò la sfortuna pubblica di Fini. Fini ieri ha ammesso a un giornalista: sì, è vero, sono un coglione, apprendo da lei anche di questi sviluppi, non ne sapevo niente, e così via. Ma la questione non riguarda, mio giudizio, oramai Fini che è fuori dalla politica, riguarda l'ammontare pazzesco delle evasioni ricostruite, sia pure nella fase di indagini preliminari oggi, dalla Procura di Roma. Perché il motivo per cui sono stati arrestati Francesco Corallo e l'ex parlamentare PDL Amedeo La Boccetta, nella ricostruzione che ne ha fatto ieri la Procura di Roma, è un giro complessivo, ripeto, molto vorticoso tra l'Italia, le Antille olandesi, società offshore, che sfiora quasi i 300 milioni di euro negli anni tra il 2004 e il 2007, e poi una seconda finestra temporale che riguarda il 2014. Come diavolo è possibile che vicende che di questo tipo, con 300 milioni di euro di evasione fiscale nel gioco, ripeto, un settore che pure arriva a 88 miliardi nel nostro paese? Allora, siccome nel frattempo ci sono anche sindaci che fanno marcia indietro sulle ordinanze, e qui andiamo invece alle macchinette, quelle che stanno nei piccoli esercenti, i tabaccai e i bar, non le grandi catene che gestiscono le grandi sale da gioco delle videolottery nel nostro paese, quelle su cui si fanno quei flussi su cui indaga la Procura di Roma, fanno marcia indietro. Abbiamo collegato le due cose e abbiamo due ospiti, infatti, per i due aspetti della questione, per chiedere di spiegare ai nostri ascoltatori come sia possibile un fenomeno di evasione di questo tipo e se sia credibile. Abbiamo chiesto a un imprenditore del settore, consulente nel settore del gioco legale pubblico, Eugenio Bernardi, di essere con noi. Grazie di essere con noi, Bernardi. Grazie Giannino, buongiorno. E poi il sindaco di Minerbio, in provincia di Bologna, uno dei sindaci che appunto stanno riflettendo sul fatto: ma che cosa faccia le ordinanze a fare contro le slot nei piccoli esercetti, se poi quelli dei comuni tutti intorno a me non le fanno e quindi il fenomeno rimbalza, faccio solo un danno ai piccoli esercenti del mio comune ma per il resto non risolvo niente dell'emergenza della dipendenza del settore. Ecco, Lorenzo Minganti, il sindaco di Minerbio, è con noi e grazie di essere con noi. Grazie a voi, un saluto a te e agli ascoltatori. Bernardi, lei ci crede alle cifre che ho ricordato prima, che sono alla base degli arresti e delle indagini della Procura di Roma? 300 milioni solo su uno di coloro che hanno le concessioni nel settore del gioco legale di evasione tributaria in pochi anni? Ma io sono rimasto sbalordito anch'io, perché noi siamo molto controllati, diciamo, come settore, nel senso che noi versiamo una tassazione ogni 15 giorni, paghiamo le tasse anche sulle macchine rubate, i concessionari dovrebbero versarle con 60 giorni posticipati e hanno anche loro delle scadenze molto, molto controllate. Quindi a questo punto scoprire adesso che ci sono delle tasse non pagate del 2007, rimango molto sorpreso, così come quelle del 2014. Però, come dice l'indagine, parla di videolottery e gioco online, che sono due cose molto diverse dal controllo delle macchinette nei bar. e sono controllate, sono verificate, soprattutto le possono vedere tutti i compartimenti dei monopoli, quindi se un qualsiasi ufficio dei monopoli vuole controllare una macchinetta in un bar, va in ufficio, digita il codice della macchinetta e lo può leggere immediatamente, cosa che non si può fare con le videolotteri, e con l'online non so cosa succede perché lì non sono pratico. Ecco, vogliamo spiegarlo che le reiterate iniziative assunte dallo Stato, che da una parte fa lo Stato etico e annuncia di anno in anno interventi, è saltato, poiché la legge di bilancio è stata approvata in pochi giorni, l'intervento che era stato annunciato per l'ennesima volta, promesso in legge bilancio, di intervento per riduzione di decine di migliaia di slot nei bar e nelle tabaccherie. Da una parte lo Stato fa lo Stato etico, dicendo la dipendenza, dall'altra però poi moltiplica le sale dei grandi concessionari dove si gioca ben di più. Vogliamo spiegare un secondo ai nostri ascoltatori, lei è un esperto del settore, ma questa rappresentazione dei due segmenti, con lo Stato che su uno accelera col piede etico e sull'altra alza il piede invece, non è una contraddizione evidente anche per voi che siete del settore? Ma senz'altro, perché come dicono certi organi di stampa, vogliono far sparire le 5.000 aziende di gestione che controllano e installano gli apparecchi nei bar, che tra l'altro sono le più economiche di tutte, nel senso che le nostre macchine vanno 1 euro, vincono 100 euro, non c'è riciclaggio, non c'è, diciamo, sì, ce ne sono tante, quello lo riconosciamo e siamo anche d'accordo di ridurle, e basterebbe per ridurle applicare il decreto del 2007 che diceva massimo 4 apparecchi per locale pubblico. Qui invece si vuole ridurre del 30%, 35%, e poi si vuole aumentare le sale scommesse di 5.000 unità, in cui ci andranno dentro sempre le solite videolotteri che vanno a 10 euro, che hanno un jackpot a 500.000 euro, che con i ticket c'è il riciclaggio, che lo dice la UIF della Banca d'Italia da 4 anni, e forse stanno facendo qualcosa adesso, ma non si sa ancora quando sarà pronto il decreto per poter cambiare le certificazioni di queste macchine. Cioè, lo Stato vuol colpire soprattutto i piccoli, così da ghettizzare il gioco solo in sale, per cui uno va dentro, spende quello che vuole, occhio non vede, cuore non duole, e tutti siamo sereni, però ci sono 5.000 aziende che possono lasciare a casa i dipendenti e chiudere. E questa cosa, diciamo, Renzi prima, il sottosegretario Baretta, suo fido scudiero, e altri sottosegretari che ci hanno messo le mani, non hanno mai tenuto conto. Il piano del governo, io lo ricordo, era quello di far sparire praticamente fino a 114.000 slot da bar e tabaccherie, quindi eravamo oltre il 30% più o meno, mi corregga lei se sbaglio. Sì. Perché... Tra l'altro, le dico questo Giannino, le videolotteri, che ce ne sono 57.000 in Italia su 160.000 che ci sono al mondo, sono nate sul numero di nulla osta delle macchinette dei bar nel 2009, cioè il 14% dei nulla osta che erano i concessionari davano diritto a 14% di, diciamo, di certificazioni per poter installare le macchine. Quindi se riduciamo le slot nei bar, a questo punto riduciamo anche le videolotteri, che ne sono la conseguenza. Io però torno al punto. Lei prima, se ho capito bene, perché spieghiamo ai nostri ascoltatori, dice ma guardate che sulle videolotteri, cioè per il tipo di concessione che aveva il Corallo, in teoria i monopoli possono controllare come quando vogliono, ho capito bene? Sulle AVP o slot dei bar, sì. Sulle videolotteri il sistema è molto più complesso perché ecco. Diciamo che è centralizzato, e comunque sono le richieste che sono mensili, giornaliere, vengono fatte da SOGEI per i monopoli. Però non c'è una visione immediata. Ho capito. Sì, allora, vedere. Ho fatto bene a chiederglielo, perché allora agli ascoltatori bisogna spiegare. Così, cioè, le macchine che stanno nelle tabaccherie, le piccole esercenti, eccetera, sono perfettamente controllabili dai monopoli a distanza. Quelle da cui provengono, da quello che si è capito, i 300 milioni di evasioni imputati poi in un vorticoso giro di attribuzione a società scudo in paradisi fiscali, da cui nascono gli arresti di ieri, invece insistono su macchine su cui i controlli sono più opachi. Sono diversi. Ma insomma non immediati. Però, e guarda caso, corrisponde anche il primo settore, quello sui controlli più facili, sono quelli che lo Stato vuole ridurre. Il secondo invece è e quello che lo Stato vuole moltiplicare. Questo a proposito delle contraddizioni. E allora andiamo alla questione sollevata dal sindaco di Minerbio, che dice: sì, io l'ordinanza l'avevo fatta, ma se poi vado a vedere e tutti i comuni e i sindaci, i miei colleghi, non mi seguono, a che cosa serve? E quindi Mingandi, a quel punto uno dice: Mingandi, devo fare marcia indietro. Ma lei non si sente in contraddizione rispetto a uno Stato, ma anche a gente come lei che è in buona fede? Cioè, come si fa da una parte a voler fare, tra virgolette, gli etici e dall'altra a non vedere che lo Stato è in contraddizione con se stesso, perché aumenta il totale delle entrate, distingue i regimi di controlli e così via? E quindi a quel punto, essendo sindaco, uno cosa finisce per decidere, Mingandi? In primo luogo vorrei precisare che la marcia indietro è esclusivamente sul singolo provvedimento, sì, sì, certo, non sulla lotta alla ludopatia, che rimane come autorità sanitaria locale il nostro obiettivo. Aggiungo poi che non la vedo proprio come una questione di stato etico, ma adesso qui dipende qual è il pensiero politico che abbiamo, se ci riferiamo più al Levitiano, ai Citroitis, a Rousseau, non so chi. Però io credo che lo Stato non debba tanto essere etico, però nel momento in cui siamo chiamati a risolvere una patologia importante come la ludopatia, è giusto, è corretto che adottiamo i provvedimenti conseguenti. Ma io sono d'accordo, ma no, le spiego. Una loro conseguenza pratica. Spiego a chi a casa, io vedo una contraddizione tra il dichiarare questo fine, non la contraddizione sua personale, ma tra dichiarare questo fine da parte dello Stato centrale e dall'altra prevedere ogni anno in legge di bilancio un aumento degli introiti, perché delle due l'una, se vuoi fare davvero la prima cosa, non puoi prevedere un aumento degli introiti come seconda cosa, perché io le vedo in contraddizione, punto fine, tutto qui. Fra lo Stato, mi consenta, biscazziere, esatto, e lo Stato, autorità sanitaria, non c'è dubbio, questo è una schizofrenia evidente. Sono d'accordo, ecco, esatto, quindi siamo d'accordo. E quindi lei però dice: ma perché i suoi colleghi non l'hanno seguita nell'area limitrofe? Noi facciamo parte di un distretto sociosanitario che è composto da 15 comuni. Di questi, 8 hanno adottato un testo che era stato più o meno condiviso, 2 l'hanno adottato con modificazioni e 5 non l'hanno proprio adottato. Capisce bene che, dato che alcuni di questi comuni confinano con il mio, chi sia giocava ed era a rischio ludopatia, che anche i giocatori saltuari che facevano un giocatino ogni tanto, non dovevano fare altro che spostarsi di 3-4 chilometri e andare a giocare altrove. Quindi le limitazioni orarie che avevamo a posto si sono dimostrate assolutamente inefficaci, questo è il problema. Ecco, e siccome cose analoghe delle cronache locali dei giornali, perché sono cose che poi non vanno nelle cronache nazionali, abbiamo appreso valutazioni analoghe da parte di comuni del Vercellese in Piemonte e così via, la domanda che faccio al sindaco di Minerbio è: ma un coordinamento in sede ANCI, nelle regioni quantomeno, non a livello nazionale, in maniera da farvi assumere posizioni coerenti e che quindi costituiscano davvero anche una misura di efficacia in territori più vasti, visto che i comuni sono tanti, a volte con superfici piccole, non funziona il coordinamento, almeno in ANCI a livello regionale, su questi temi, di queste misure qua? No. Ma guardi, ci si è provato su questo, su tanti altri argomenti. Secondo me bisognerebbe essere un pochino più tranchant, riconoscere che dovrebbe essere disposta una diversa allocazione di certe competenze. Qui in Italia, abbiamo visto anche 2 settimane fa, con l'esito referendario, abbiamo tanta paura del cosiddetto uomo solo al comando. La mia personalissima esperienza è che siamo all'esatto contrario, cioè discutiamo, facciamo tavoli, ci confrontiamo e poi alla fine non riusciamo mai a decidere nulla. Quindi io non vorrei con timore che, ad esempio, la competenza sanitaria di cui parliamo fosse attribuita, visto che siamo a Bologna, alla città metropolitana di Bologna. E che sia questa, dopo averne discusso, confrontato con i sindaci, adottare un provvedimento che poi abbia efficacia giuridica su tutti i vari territori comunali. Che dia, per così dire, omogeneità, in quel caso a una qualità dell'offerta di servizio. In questo caso l'omogeneità di efficacia a misure per contrastare la dipendenza dal gioco, perché in questo caso, ripeto, io do atto, ci sono amministratori mossi anche da buona volontà, ma di fatto, come si vede poi nell'Italia delle mille competenze contrapposte, si finisce per avere il contrario. Allora, 2 fotografie, grazie a Eugenio Bernardi, imprenditore del settore, su come siano diversi il regime dei controlli e come sia evidente anche nel regime dei controlli la contraddizione tra lo Stato, tra virgolette, che deve tutelare la sanità e quindi il non diffondersi la ludopatia da una parte, dall'altra lo stato biscazziere e il sindaco di Minerbio che ci dà la conferma amministrativa che bisogna ancora risolverlo, perché questi due stati diversi sono due mani di una stessa persona ma vanno in contraddizione. Grazie a entrambi. Sentiamo come la pensa Stefano Dalavara invece sulla questione su cui ho cominciato, quella che improvvisamente si è affermata nell'agenda politica con una forza dirompente, cioè c'è il referendum, abbiamo scoperto, con 3 milioni di firme raccolte dalla CGIL contro la revisione dell'articolo 18 fatta col Jobs Act. Sentiamo Stefano Dalavara, meglio farlo quel referendum e come voteresti, oppure meglio andare a votare prima perché bisogna avere paura di come la pensano gli italiani rispetto alla nuova formulazione dell'articolo 18? Stefano. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Ho 65 anni e da qualche anno sono in pensione e negli oltre 40 anni di servizio che ho fatto mi è capitato anche questa di dovermi rivolgerci a un giudice perché mi avevano usurpato il mio posto di lavoro e sono stato riconosciuto dei miei diritti. E, quindi hai avuto una reintegra giudiziale? Sì, certo. Quindi? E quindi sono stato risarcito con diverse, posso dire, circa 300 milioni di vecchie lire di allora. Sì. Questo perché il giudice in Toscana ha riconosciuto quelle che sono state le mie ragioni di fare vertenza con l'azienda. E intendo precisare che io la vertenza l'ho fatta pur essendo dipendente e in quel periodo che è stato interposto fra la consultazione del giudice e la mia attività sono stato trattato da cane. Sono stato buttato fuori dal però ufficio. Questa tua esperienza sono personale, Stefano, ma questa tua esperienza personale ti porta a dire che era meglio il regime precedente delle tutele? Sì. Ma certo, quindi, ma è ovvio. Quindi tu dici meglio votare al referendum. Hai fatto capire che sei per il ritorno al vecchio regime. Però meglio votare per il referendum. Perfetto. Eppure ho apprezzato anche l'accenno della stampa. Ma che abbiano il coraggio di dire le cose. Intanto cosa le teniamo nascoste per 10 esatto, minuti. Esatto. No, questo fa ridere anche me che faccio giornalista, perché noi poi critichiamo gli altri, però ci sono dei meccanismi che a me sfugge come sia stato possibile per mesi far finta che non esistesse questa questione, ma questo dipende dai direttori. Mattia da Brescia, come la pensa invece Mattia? Buongiorno Oscar, io volevo dire semplicemente una cosa su questo nuovo referendum. Sì. Secondo me la tendenza che c'è adesso è questo abuso dello strumento democratico che coinvolge i cittadini, che però secondo me non denota un interesse del governo, del Parlamento verso quello che realmente pensano i cittadini per coinvolgerli, ma semplicemente denota una debolezza di un governo che non sa dedicare. Attenzione però, questo è stato un sindacato, non un partito, è stato un sindacato che non è d'accordo con la modifica del Jobs Act e che quindi raccoglie le firme. Il sindacato è fuori dalla rappresentanza diretta politica, ma questo non per correggerti, per così dire. Il problema è che chi l'ha votato quel provvedimento per mille giorni l'ha difeso come una grandissima riforma che improvvisamente sembra squagliarsi come neve al sole, al punto tale, per non volerlo difendere, per non voler dire ma state scherzando, ma milioni di contratti a tutele crescenti derivano dalla nuova visione di tutele dinamiche nel tempo e non ferme e rigide come un tempo, non volendo più dirlo perché hanno paura che gli italiani li sconfiggano, arrivano a dire signori andrà a casa il governo prima perché così il referendum non lo facciamo slittare di un anno. Quindi la politica in questo caso, secondo me Mattia, non è che l'ha promosso, lo subisce ma nega l'importanza di ciò che ha ripetuto per mille giorni. Ecco, io mi limito a dire questo, è una grande contraddizione, vedremo che sviluppo avrà la faccenda. Continuate ascolto su Radio 24, con me appuntamento alle 4:30 oggi pomeriggio. Chi volesse, per non sentirmi dire che sono muto su questo argomento, approfondire lo sviluppo della vicenda dei Conti del Sole, Il Fatto Quotidiano oggi ha una pagina intera sugli sviluppi che sono in corso, dire la finanza è venuto qui, quindi nessuno nasconde nulla, o almeno non Oscar Giannino, e non evita di segnalarvi anche questo tema con l'articolo del Fatto Quotidiano. Buon ascolto su Radio 24.